togliermi di dosso gli anni. Non voglio pensarci al tempo che passa, all'amore che si alza e se ne va. Tornate in diretta su Radio Non Una di Meno Milano. Esattamente, siamo ritornati con la nostra radio pirata, diciamo così, Radio Lotto tutto l'anno, perché continua la quarantena, ma continua anche il nostro modo di cercare di tenerci vicine a distanza. E come sempre ci trovate sul nostro canale, che ora non ripetiamo perché forse non lo sappiamo dire. Marta, tu lo sai dire? No, potrei in effetti avere un momento di disagio, ma adesso se perfetto, mi dai un secondo. Però se andate recupero, tipo sul Telegram e cercate Non Una di Meno Milano, lo trovate. Se sì, no, siamo su sicure. Facebook, su Twitter e su Instagram anche, sempre sì. Non Una di Meno Milano. Allora, io ci tenevo a descrivervi 5 secondi il disagio della situazione, nel senso che certo, ovviamente io e Carlotta non siamo insieme, lo no, dico per sarebbe la sicurezza bellissimo di tutte, ma abbiamo tipo un cellulare in viva voce che manda in un microfono, quindi speriamo che i volumi non facciano troppo schifo, ma tant'è. Vabbè. Comunque stiamo sperimentando tante cose nuove nella vita e una di queste è anche le dirette radio a distanza. Io vi dico, sono con degli auricolari terrificanti, ma mi sembrava meglio parlare nel microfono degli auricolari che non nella voce, anche perché non so voi, ma io quando poi parlo al telefono senza auricolari schiaccio sempre con la guancia dei tasti e quindi il mio telefono finisce sempre per fare delle cose bizzarre. Sì, esatto, esatto. Allora, ne approfitto subito per fare quella cosa tanto radiofonica, vi lascio i nostri contatti. Perché, come diceva Charlie prima, per noi questa è l'occasione per ricordare a tutte, a tutti e a tutto che non sei solo, sola o solo, e anche che questa radio è per noi l'occasione per dare voce a tutte le soggettività in ascolto. Quindi, se ci volete scrivere, nonunadimenomilano@gmail.com e ci potete anche mandare dei vocali che noi li scarichiamo e li mandiamo in diretta magari la prossima volta. Poi abbiamo un blog, nonunadimenomilanoblog.wordpress.com. Bravissima Marta. Lo sto leggendo. Ecco. Ah, ecco. Mi sembrava strano che l'avessi imparato in così pochi Fatti, panni. fatti no, nonostante la clausura. E poi, vabbè, abbiamo Facebook, Instagram, Twitter, tutto più o meno come non una di meno Milano o non una di meno Mi o non una di meno punto Milano. Sono sicura che potrete trovarci alla grande. E poi il canale Telegram, prima l'abbiamo detto a sproloquio, adesso ve lo dico bene, t.me/nonunadimenomilano. Non era difficile. No, pensavo peggio. Pensavo peggio. Allora, è il 18 marzo, quindi prima di parlare pensavamo di, come dire, fare una cosa doverosa. È una settimana molto particolare per Milano, per la vita politica milanese. Da pochi giorni trascorso, il 16 marzo, anniversario della morte di Dax, oggi 18 marzo, anniversario della morte di Fausto Iaio e di Orso l'anno scorso. Credo sia la prima volta in 17 anni che non ci troviamo insieme il 17 marzo, la prima volta in Esatto. 42 che non ci troviamo in Mancinelli, però insomma la radio può essere anche uno strumento per stare vicini anche su questo. Sì, appunto, per provarci e quantomeno anche per provare a tenere vivi dei pezzi di ragionamento che in altri momenti magari avremmo fatto in piazza. Non è il caso che quest'anno, per esempio, poster delle mobilitazioni, le commemorazioni per Dax riportasse una frase di Orso, quindi pezzi di storie che avremmo intessuto in piazza, possiamo anche provare a tenerle legate a distanza. Sì, ci proviamo almeno. Sì. E va bene. Allora, io avevo questo schiribizzolo, tornando alla radio a non una di meno, sul linguaggio. È vero? Che strano. Perché metti che qualcuna, qualcuno ci ascolta e si chiede perché questo uso tronco delle parole o questo ripetersi di vocali aspirate improbabili. Allora, così, per il bello della diretta, volevo leggervi proprio in diretta l'introduzione al piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e di genere, e la violenza di genere, che è il piano di Lo Non Una di Meno. trovate su nonunadimeno.wordpress.com. Esatto, e ci sembrava così un buon modo per cominciare anche per capire perché facciamo queste acrobazie del linguaggio che ci piacciono e che però è doveroso raccontare. Vado, leggo. Vai. Il linguaggio non è solo un'istituzione sociale o uno strumento di comunicazione, ma anche un elemento centrale nella costruzione dell'identità, individuali e collettive. La lingua italiana è una lingua sessuata, che già dalla sua grammatica riproduce e istituisce un rigido binarismo di genere, tra nomi, pronomi e aggettivi che cambiano a seconda se maschili o femminili, e una specifica gerarchia in cui predomina il maschile, presentato come universale e neutro. In questo piano abbiamo scelto di svelare la non neutralità del maschile, utilizzando non solo il femminile, ma anche la chiocciola, let, per segnalare l'irriducibilità e la molteplicità delle nostre differenze. Consapevoli che le lingue mutano e si evolvono, proviamo a rendere il nostro linguaggio inclusivo per avere nuove parole, per raccontarci e per modificare i nostri immaginari. Ecco.

In verità nella cameretta del figlio, però sì, proprio così, come quelle cose che ti chiudi in stanza del camera. figlio, un film di Moretti, ma anche di Ma Masta. anche mio, sì. Va bene. Allora, già che ci siamo, parliamo di sta quarantena. Maronna. Appunto, dicevamo, secondo me già siamo partite bene, nel senso che una delle cose che dobbiamo, o quantomeno io ci tengo a dire sulla quarantena, è che non tutti gli spazi sono uguali e che quindi, come dire, c'era un bellissimo striscione che girava un po' qualche giorno fa sui social che diceva romanticizzare la quarantena è un privilegio di classe, perché Quanto insomma, vero. appunto. L'abbiamo detto in tante salse anche nella precedente lunghissima diretta, le case non sono tutte uguali sia proprio a livello spaziale di che tipo di case le persone abitano, e le case non sono tutte uguali anche a livello di relazioni, Sì. che le abitano, Altro che. ecco. Uno dei primissimi temi che abbiamo affrontato, che abbiamo sentito poi in verità proprio di pelle, è stato come dire, quello del smart working, lavoro di cura in sovrapposizione, e figli a casa, compiti a scuola. Ne abbiamo parlato tanto prima dell'8 marzo, non so se lo ricordate, con una sorta di rubrica che si chiamava Diari dalla quarantena, transfemminista, che è andato in onda su Radio Popolare e che poi abbiamo La riproposto. ritrovate sul blog? Esatto, che ritrovate sul blog e magari poi riascoltiamo anche tra poco per rinfrescarci la memoria. È anche occasione per dire che possiamo continuarla questa pratica, nel senso che per noi sarebbe molto bello e importante continuare a raccogliere le vostre testimonianze, per cui se volete scriverci, se volete mandarci vocali, i contatti sono sempre quelli di prima, quindi non una di meno Milano, chiocciolagmail.com è la nostra mail, ma potete scriverci anche su tutti i nostri canali social per appunto mettere insieme le esperienze. Allora, io dicevo prima che quella dello smart working, del lavoro flessibile, ma anche della femminilizzazione del lavoro che in questa quarantena, come dire, si sente, se è possibile, ancora più pesantemente, sta una delle primissime cose che abbiamo sentito sulla pelle e devo dire che in queste settimane, modello corsa ostacoli, la situazione è super. Si è super complicata, no? Io ci ho in mente bene. Allora, la prima settimana che ci dicevamo, cazzo, devo stare a casa a fare lo smart working con le scuole chiuse, non so dove mettermi il figlio, quello mi salta in testa con la conference call con l'Europa. E la seconda sec settimana alziamo il livello, cazzo, devo stare a casa con lo smart working, il figlio che mi salta in testa e i compiti da fargli fare. E settimana successiva ancora devo fare i compiti, lo smart working, il figlio che mi salta in testa, insegnargli le tabelline, perché ormai abbiamo fatto lo step successivo, no? Sul sostituirsi, cioè non solo fargli fare i compiti, ma sostituirsi proprio all'istituzione scolastica. Ora stiamo al livello del supporto psicologico e tecnologico anche alla scuola, non solo ai figli, per cui sempre più difficile. Sì, e comunque è vero che se, come dire, all'inizio poteva sembrare anche una situazione un po' di emergenza in cui tutte e tutti ci si arrangiava e c'era, come dire, molta tolleranza da parte di tutti, ora invece inizia a essere forse un po' meno e a sentirsi un po' di più la pressione comunque a essere molto produttive sul lavoro, a portare avanti quello che si può, delle volte anche apparentemente un po' girando come dei criceti su una ruota, cioè anche Madonna. facendo cose che effettivamente se poi avessimo la calma e il modo di fermarci a pensare non avrebbero tutto sto senso, Sai, c'è ecco. una sorta di deformazione spazio-temporale, per cui no, c'è questo lavoro che tutto ingloba, pause pranzo che scompaiono, alle Sì, 10 di sera guardi fuori dalla finestra e dici, ah, sono le ah, sono 10. le 10. Sì, io Vabbè. devo dire che poi, per esempio, io pensavo di essere abituata a lavorare da casa, nel senso che è una cosa che mi capita anche fuori da questa emergenza coronavirus, Sì. Mi sono però resa conto che il fatto appunto di non avere altri appuntamenti, di non avere, e anche del fatto che anche le altre persone sono tutte a casa a lavorare, quelle che un po' girano intorno al mio di lavoro, fa sì che poi appunto quella cosa che ci diciamo spesso, che i tempi di lavoro e i tempi di vita si mischiano, si sommano, si confondono, ecco, come dire, sempre più vero purtroppo, o per fortuna, perché magari possiamo cogliere delle contraddizioni, senza ovviamente dimenticare tutte le persone che al lavoro continuano ad andarci fuori da casa. Sì, tra l'altro senza protezioni e nel nome della produzione ininterrompibile. Va bene, allora, pensavo questa cosa, l'abbiamo detto prima, sì. Magari vi facciamo risentire uno dei diari della quarantena, certo, delle scorse settimane, con i contributi da casa, che fa tanto professional. E anche un po' per invitarvi a mandarci dei contributi, se non ve la sentite di mandare dei contributi audio per qualsiasi ragione, potete anche mandarli scritti, noi li leggeremo per voi. Esatto. E poi dopo, magari dopo aver sentito i diari della quarantena, vi mandiamo subito dopo anche un altro estratto del piano, quello libere dalla violenza economica, perché senza presunzione, ma come dire, tante cose un po' ce le sentivamo anche fuori dall'emergenza. Va bene, sì, diari, assolutamente. Diari, ci sentiamo tra un pochino. Allora mi si connette il capo da remoto, lui vedeva e sentiva, controllava. Diari dalla quarantena transfemminista, un podcast a cura di Non Una Di Meno Milano. Ciao, sono Ada, ho 46 anni, sono un'impiegata a tempo indeterminato, ho due figli a carico di 6 e 8 anni. Quando è scattata l'emergenza sanitaria e la scuola e l'asilo sono stati chiusi, io mi sono chiesta: ma che senso ha chiudere le scuole e mandare i genitori a lavorare? Mi sono sentita presa per il culo, sinceramente, e sola. Non posso permettermi una babysitter, perché mi costerebbe quanto guadagno all'ora. I miei genitori abitano in un'altra città, hanno 70 anni e sono la categoria più esposta al virus. Non ho potuto chiedere aiuto, non me la sono sentita. Mi chiamo Margherita e lavoro per un'azienda che eroga dei corsi di programmazione informatica. Da questa settimana sono obbligata a seguire la geniale politica dello smart working, che non è assolutamente geniale. Per me questo significa lavorare da casa in una costante videochiamata con le mie alunne. Ora, questo potrebbe sembrare quasi una bella prospettiva, ma non lo è, dal momento in cui il mio PC personale è l'unico strumento che io ho per lavorare, perché non mi è mai stato dato un PC aziendale. E ora questo si è trasformato nello strumento, nel mezzo, che i miei datori di lavoro hanno per controllarmi. Lavorare da casa significa per me essere obbligata a rimanere sempre e costantemente online, a disposizione, per tempi che vanno ben oltre le 8 ore dettate dal mio contratto. Ciao, sono Oksana. Lavoro come insegnante di ginnastica presso il CAM del comune, ma non sono assunta del comune. Lavoro per diverse cooperative con contratti brevi che non mi danno neanche diritto alla disoccupazione. Prima che scattassero le misure d'emergenza contro il coronavirus, sono stata male e sono stata a casa una settimana. Ma non ho la malattia pagata. Poi sono dovuta stare a casa per un'altra settimana a causa delle misure contro il coronavirus. Totale 2 settimane senza stipendio. Così mi sono ritrovata a telelavorare da casa, mentre accudivo due bimbe scatenate, rispondevo al telefono, partecipavo a riunioni, lavoravo al PC, cucinavo, lavavo, ordinavo, facevo fare compiti alla più grande, sì, perché gli insegnanti hanno dovuto far proseguire la programmazione scolastica, e quindi vai con matematica, italiano, geometria, scienze, storia, e nel frattempo dovevo intrattenere la bimba più piccola. Potete vagamente immaginare cosa voglia dire. Mi sono sentita in un mondo distopico, un mondo che caricava la responsabilità di questa emergenza tutta sulle mie spalle. Tra lavoro produttivo, lavoro di cura, sto lavorando praticamente 24 ore al giorno. Sì, 24, perché se le bimbe si svegliano di notte e si ammalano, ci devi essere. E ciò che non riesci a fare di giorno lo devi fare di notte. Mi sono sentita in un mondo che non sa più che cos'è il welfare, ma sa benissimo cosa vuol dire estrarre il massimo del profitto dalle donne. Lo smart working dà quasi l'impressione di non lavorare mai, ma la realtà è che tra una videochiamata con il capo, una lavatrice da stendere, oppure l'ennesima consegna che non mi pagheranno mai, io non ho smesso un istante di lavorare. In questi giorni di quarantena, sarà capitato anche a voi di imbattervi in un'amica, una collega, una cugina, una compagna di università, in preda ad uno sfogo? Magari proprio voi sarete cadute in preda all'ansia, allo sconforto, alla frustrazione, tra emergenza coronavirus, scuole che chiudono, telelavoro, smart working, anziani da tutelare e conti da far quadrare. Non una di meno Milano ha raccolto molte voci e diversi dilemmi dalla metropoli milanese in quarantena, perché condividere le vulnerabilità è il primo passo per prendersene cura collettiva e diventare insieme più forti. Chiediamo a gran voce welfare di qualità per tutte, tutti e tutto e reddito di autodeterminazione, perché ci vogliamo vive, in salute, ma anche libere e felici. La cosiddetta femminilizzazione del lavoro richiama oggi non solo all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, ma a un processo più articolato e complesso. Da un lato, l'estensione a tutta la forza lavoro dei tratti che hanno storicamente caratterizzato il lavoro femminile, quindi l'obbligo a una piena disponibilità del tempo, l'intermittenza e la gratuità lavorativa. Dall'altro, una modalità specifica di sfruttamento che mette al lavoro le soggettività stesse, gli stili e le forme di vita, le capacità relazionali e di cura. È il femminismo, del resto, ad aver mostrato come nel capitalismo la sfera della riproduzione sociale e della cura sia divenuta immediatamente produttiva. Ma se il lavoro produttivo viene quantificato e scambiato con un salario, seppur oggi sempre più basso, quello riproduttivo, che da tempo ormai eccede le sole attività domestiche, qualificando la produzione stessa, ancora non viene conteggiato economicamente né socialmente riconosciuto. Quando è conteggiato o formalmente riconosciuto, è sottopagato e sfruttato oltre misura. In altri termini, la ricchezza che quotidianamente, in molte forme e su più livelli, produciamo, ci viene sottratta e non è in alcun modo ridistribuita. Eccoci, siamo tornate. Eccoci. Vi abbiamo fatto un pippozzo infinito, registrato così, però, non dalle nostre voci in diretta. E così, perché... Quindi, meglio? Meglio, forse meglio, forse no. E niente, ci sembrava però un modo sensato di riprendere il filo di tutte le cose che abbiamo raccolto in queste settimane, prima intorno all'8 marzo, ma anche dopo, e per ricominciare a fare il punto su questi diari della quarantena. Sì, e per invitarvi a continuare a farlo, nel senso che poi, come dire, tenere anche traccia, lo diceva benissimo non una di meno Modena, in un post su Instagram, Facebook, sul loro, su Instagram, sì, su tutto. E Modena è un'altra dei luoghi dove, insomma, la quarantena è iniziata abbastanza presto e quindi magari c'è un pochino di allenamento rispetto a questo. E scrivevano appunto una specie di decalogo di cosa fare durante questa quarantena, non il classico decalogo di leggere libri e vedere film che nessuno ha tempo di guardare, ma un vademecum contro i sensi di colpa. E vi leggo alcuni i primi pezzi. Dice: va bene rispettare le regole imposte, ma non interiorizzarle. E il consiglio è: mo questa me la segno. Ad ogni nuova limitazione della nostra libertà, chiediamoci quanto di tutto questo ci rimarrà addosso a emergenza finita. Stendiamo un elenco di tutte le imposizioni che riguardano da vicino il nostro corpo, le abitudini più intime, i sentimenti, per evitare che questo si trasformi domani in un aumento della pressione e del controllo sulle nostre vite. Ecco, allora, provare magari a raccontarci dei diari della nostra quarantena ci aiuta anche a vedere un po' di queste imposizioni che ora appunto rispettiamo, ma essere in grado di non farle diventare abitudini e di vedere anche quelle che colpiscono le altre, che magari su di noi non hanno così tanto effetto. Sì, siamo proprio alla ricerca di antidoti, mi verrebbe da dire, o anticorpi un po' per sopravvivere a questa quarantena, a questi flash mob sui balconi, a questi inni e arcobaleni. Sì, alla gente che mette le foto online di altra gente che cammina e che propone di denunciare tutti, sì, c'è una sorta, alla polizia. È vero, una sorta di velleità delatrice, ma anche tra insospettabili. Veramente io... Sì, veramente tra insospettabili. Gente tutta ACAB fino a ieri e oggi, oggi sta invece pronta a denunciare. Però lo ricordiamo... Tutti amici delle guardie. Anche su questo, senza voler appunto dire che le regole non vanno rispettate, perché ne va della cura di tutte, tutti e tutto, riconoscere però, lo dicevamo all'inizio, no? Che le case non sono tutte uguali, che le condizioni dentro le case non sono tutte uguali, che le motivazioni per uscire sono varie, cioè c'è gente, c'è tantissima gente, leggevo prima un articolo, sono circa 300.000 i lavoratori dell'area metropolitana di Milano che stanno continuando a recarsi a lavorare per lavori non essenziali, quindi diciamo escludendo assistenti sanità, sociali, medici, sì. Sì, tutto il preziosissimo personale delle pulizie, cioè ecco, io questo che peraltro a fare scatole. Sì, ci tenevo a dirlo, compagne, compagno e compagni, io mi viene il sospetto che quella gente che affolli la metropolitana non sia proprio felice di affollare no. la metropolitana, per cui magari appunto questo nuovo spirito degli amici delle guardie, magari riflettiamo. Sì, anche pensare che se una persona, anche se sta facendo una corsetta, ma magari ha lavorato tutto il giorno, magari per consegnarvi per esempio quei pacchi o di, la pizza, non lo so, maschere per o il viso sushi. che stiamo ordinando online, anche no shaming su nessuno, però tenere conto che è un po' più complicato, le condizioni sono diverse e avere cura è anche ogni tanto appunto provare un po', è una roba un po' così, un po' fricchettona forse, a mettersi nei panni degli altri, delle altre. Non so se stiamo invecchiando o se questa quarantena, quindi a questo o forse rimaniamo ACAB e basta, o forse ACAB, quello sempre 13-12 sempre. No, invece non lo abbiamo ancora detto, Carlotta, ma questo è un nostro grande cavallo di battaglia. Quindi prima di tacerci per magari far ascoltare un po' di musica, che la nostra voce comincia a stancare, io volevo ricordare l'appello alla posta del cuore, perché un po' deluse, dobbiamo dire siamo un po' deluse perché non ci avete scritto tanto, e invece a noi ci sembra che invece di fare le delatrici e i delatori, se voi ci raccontate dei vostri amori a distanza, ci investite, o di vicinanza, se ci investite del ruolo di messaggere, noi siamo felici e ne vale della salute di tutte e tutti. E tutti. Esatto, se volete proprio usarci sia per dire a quello del palazzo di fronte che mette sempre Rovazzi, ma che nonostante questo vi piace tantissimo, noi non giudicheremo ovviamente né i suoi nei vostri gusti musicali, ma glielo riferiremo, sia se volete velatamente far sapere al vostro partner o alla vostra partner con cui condividete la casa che bello ascoltare Rovazzi, ma anche meno. Noi siamo qui, siamo qui, noi siamo per qui voi per passare tutti questi messaggi. Esatto, esatto. Ora, sempre in tema di reclusione domestica, un pezzo che ormai è un nostro cavallo di battaglia, un nostro, come lo possiamo definire, ormai un evergreen di Non Una di Meno. Un evergreen, mi sì, piace. Sì, sì, sì, ed è... Cioè, in pratica, ecco, se volete lanciare questo nei flash mob musicali, noi ve lo suggeriamo. Esatto, esatto, peraltro guardate che poi noi le dirette le stiamo registrando, le scarichiamo, le mettiamo online, vi facciamo le playlist, per cui non vi preoccupate che la ritrovate, questa come volete, come quando volete, ed è il pezzone della Sputas Domesticas, che si chiama Il lavoro di cura, e, come dire, ascoltiamola che... ci fa molto bene, e così magari esorcizziamo anche un pochino. Oh, via! Il lavoro di cura è una tortura. Thank you. Eccoci, scusate, eccoci. Stavamo ciacolando nel frattempo, è finito il pezzo, noi... ovviamente eravamo distratte. Sì, ve l'abbiamo detto che la vediamo un po' come la telefonata del liceo, in verità... quella che poi ti dicono, ma vi siete viste tutto il giorno? Esatto, che cazzo state al telefono tutta la sera? In verità, quello che stiamo, ammettiamo che quello che stiamo facendo altro non è che l'aperitivo che facciamo di solito alle 7 su Jitsi, e invece adesso lo stiamo facendo su Radio Non Una di Meno. Con la sì, e grazie alla radio non dobbiamo neanche far finta di vestirci. Esatto, scusate, intanto io bevo dello spritz. Brava, brava, è un'ottima idea. Va bene. Allora, visto che stavamo, come dire, parlando ancora una volta del fatto che appunto le case non sono tutte uguali e le relazioni all'interno delle case non sono tutte uguali, volevamo così leggervi un altro pezzetto del nostro piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, che trovate online su nonunadimeno.wordpress.com, perché per ricordare il prezioso lavoro che i centri antiviolenza fanno sempre, tutto l'anno, tutti gli anni, tutti i giorni, ma che in questo momento si stanno attrezzando a fare anche in questa situazione un po' difficile. Per cui, così, giusto due note dal nostro piano su che cosa sono i centri antiviolenza. In questo momento storico, segnato dalla forte riemersione della violenza patriarcale e dalla virulenza delle politiche neoliberali, i centri antiviolenza sentono forte il bisogno di darsi nuove prospettive e affermare gli elementi distintivi della loro identità per resistere agli attacchi di coloro che, in piena sintonia con la cultura dominante, propongono una narrazione della violenza che tende alla neutralizzazione dell'approccio e all'istituzionalizzazione delle pratiche. Definiamo centri antiviolenza tutti i centri, gli sportelli, le case rifugio, le case di semiautonomia, gli spazi occupati e autogestiti delle donne. Questi sono luoghi di elaborazione politica, autonomi, laici e femministi, al cui interno operano esclusivamente donne e il cui obiettivo principale è attivare processi di trasformazione culturale e politica e intervenire sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile e di genere sulle donne. Con donne si intende donne cisgender, transessuali e lesbiche. In quest'ottica i centri accolgono e sostengono i singoli percorsi di fuoriuscita dalla violenza, intervengono sulla formazione e sulla prevenzione, sensibilizzando il territorio e strutturano un sistema complesso di reti al cui centro c'è il vantaggio per le donne. Nei centri viene adottata una metodologia indirizzata all'autonomia e mai all'assistenza, basata sulla relazione tra donne e sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale, strutturale e non emergenziale. Ogni percorso di fuoriuscita dalla violenza si avvia su iniziativa e scelta della donna coinvolta ed è finalizzato alla rielaborazione degli eventi subiti e all'empowerment nel rispetto dei desideri, dei codici valoriali e dei bisogni di ognuna, senza la prescrizione di percorsi o passaggi obbligati. L'ascolto empatico e la giusta vicinanza richiedono la capacità di partire da sé, di riconoscere e gestire le proprie reazioni emotive, di lasciare spazio al racconto e ai silenzi delle donne senza interporre il proprio giudizio. Ecco. Questo per dire il lavoro che appunto i centri fanno e è buono ricordarlo, in condizioni sempre costanti di sottofinanziamento e in condizioni molto spesso di attacco o quantomeno di svalutazione. Sì, a questo proposito non mi sembra mai superfluo ricordare che in una situazione in cui l'Italia è costantemente ripresa perché non è neanche in grado di rispettare il rapporto minimo previsto tra abitanti e posti nei centri antiviolenza, ecco, nonostante questo sappiamo che spesso e volentieri le amministrazioni comunali i centri antiviolenza non solo non li sopportano, ma cercano anche di chiuderli, e questo è il caso ad esempio di Lucha y Siesta di Roma, che ormai da che abbracciamo, che amiamo as usual, e che sono mesi che combatte una battaglia surreale per poter continuare a offrire un servizio sostanzialmente. Detto questo, ora siccome ci piace anche pensare di essere un po' di servizio, come dire, sì. Allora lo dicevamo prima, non tutte le case sono uguali, non per tutti restare a casa è una grande notizia, perché no. Molto spesso restare a casa significa non poter sfuggire alla violenza domestica, quindi ci sembra importante ricordare, appunto come diceva Carlotta prima, che i centri antiviolenza continuano il loro lavoro anche in questa situazione complessa. C'è un numero verde antiviolenza nazionale che è il 1522, ci sono però, e noi teniamo questo a rinforzarlo perché riteniamo che la metodologia femminista applicata dai centri antiviolenza sia importante, sia una garanzia. Allora, non tutti i centri antiviolenza sono uguali, e per questo noi ci teniamo a ricordare che dire donne in rete contro la violenza, parte della rete non una di meno, e storica esperienza di che raccoglie tutti i centri antiviolenza che appunto condividono questo approccio metodologico che leggeva prima Carlotta, potete trovare i riferimenti dei centri antiviolenza che fanno riferimento alla rete Dire sul sito di Dire, direcontrolaviolenza.it/emergenza coronavirus, dove appunto trovate i riferimenti di tutti i centri che riescono ad operare comunque anche in questa situazione così complessa. E poi soprattutto, dato che siamo a Milano, ci sembra importante ricordare che anche CADMI, la casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano, continua a lavorare anche in questa situazione di emergenza, e che il numero di telefono da chiamare sempre attivo è 02 5501 5519. Questo per dare anche un supporto concreto, no? Per dare anche degli strumenti, per non ripetersi soltanto che questa situazione rischia di essere davvero allucinante, che la violenza non si è fermata, anzi è peggiorata, lo abbiamo visto, girano decine di articoli sia su chi prima di noi si è trovata in questa condizione. In Cina è stato rilevato che c'è stata un'esplosione di casi di violenza o anche solo di divorzio, ma questo vale anche per il nostro paese, lo stiamo già vedendo nella nostra quotidianità. Sì, con in più la difficoltà ovviamente per cui per le donne trovare, se una, nel momento in cui sono in casa, trovare il modo anche solo di telefonare ai centri non è così scontato, e esatto. Quindi ci vuole un pezzo in più di cura. Esatto, va bene. Allora, adesso io metterei comunque un altro se volete mandare anche dei messaggi di aiuto travestiti da posta del cuore, proviamo sì. A intercettarli comunque. Sì, no, questo sicuramente, nel senso che poi non una di meno si è trovata anche con una responsabilità data dalla visibilità del movimento a raccogliere molto spesso queste richieste di supporto. Lo facciamo al fianco dei centri antiviolenza con tutta la competenza che siamo riusciti a costruire in questi anni. Va bene, mettiamo un po' di musica? Ma sì. E non so, Carlotta, che ricordatevi faccio? Ricordatevi che se volete scriverci non una di meno Milano è gmail.com oppure i nostri profili social. Sì. Carlotta, che faccio? Ti saluto? Ci salutiamo così? Ci salutiamo così? Vuoi rimanere in diretta? No, dai, facciamo cambiare un po' di voci per il nostro pubblico affezionato. Va bene, allora adesso... Noi torniamo, cioè io tornerò, ve lo giuro, appena avrò fatto parlare il mio microfono con il mio computer e tutti loro con il software per andare online. Sì, sì, ci stiamo attrezzando e riusciremo adesso un po' per una a far partire ste dirette. Intanto grazie Marta per il supporto da casa. Grazie Charlie. E a presto. Baci. Buono spritz. Ciao. Si je te dis non, c'est définitif. Tort ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable. Si je te dis non, c'est définitif. Tort ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable. Quelle che avete sentito erano le sexy sushi, ci siamo date un po' una botta di vita e siamo e ci siamo date anche il cambio. Esatto, ci siamo date il cambio. Carlotta e Fede si sono date il 5 e adesso in diretta con me c'è Fede. Siamo sulla radio di Non Una di Meno Milano. Potete seguirci qui, potete seguirci sul nostro strepitoso canale Telegram, cercateci come Non Una di Meno Milano. E soprattutto potete scriverci la posta del cuore o i deliri della quarantena o tutto quello che vi viene in mente a nonunadimenomilano@gmail.com o su tutti i nostri canali social che sono più o meno tutti nonunadimenomilano o nonunadimeno.milano o .mi, insomma. Sì, ci siamo trovate. Molto fantasiose da questo punto di vista, ma così ci trovate. Sì, ciao Fede! Welcome. Ah, siamo qui nella quarantena, siamo anche qui siamo a distanza e i nostri cuori palpitano. Sì, palpitano a distanza e come abbiamo spesso detto, anche partendo dalla nostra fantastica giornata dell'8 marzo, che potete riascoltare girando sul nostro blog. Adesso tu vuoi che io dica il blog? Pensavi di cogliermi impreparata, invece ce l'ho. Il nostro blog che è non una di meno Milano no blog. No, ho detto una cazzata, ricomincio. Mi hai colta in fallo. Non una di meno Milano blog.wordpress.com. È perfetto. Ho avuto un momento di così defiance, ho detto non una di meno Milano, stavo dicendo punto no blogs, perché questo è il mio desiderio futuro. Esatto, ma lo faremo, infatti, anche questo. E infatti, scusami Fede, faccio un inciso perché non lo abbiamo ancora fatto, visto che ho nominato no blogs, e però non l'avevamo ancora fatto, ma è doveroso dire molto super grazie a abbiamoundominio.org che ci permette di andare in diretta con la radio di Non Una Di Meno, e a tutta Unit che ci ha supportate non solo dal punto di vista tecnologico ma anche psicologico, emotivo, e quindi grazie Unit, grazie Autistici per darci sempre gli strumenti per fare tutte le nostre cose deliranti. Sì. Ecco, sì. Fine siete dello spot. Siete fantastico. Fantastico. E detto questo, noi stiamo... torniamo a noi. Sì, stiamo affrontando un po' questi temi, nel senso che ci piacerebbe anche avere degli spunti da parte vostra, quindi sì, come dicevamo prima, le mamme e comunque i genitori in generale che fanno smart working, hanno i bambini che gli saltano in testa, tutte le persone in questo momento in difficoltà, persone che in questo momento stare a casa non possono stare a casa, banalmente perché una casa non ce l'hanno. Stiamo cercando di, anche nelle prossime puntate, toccare tutti quanti i temi di privilegio che alcune persone in questi casi non hanno, perché per esempio io per prima ho il privilegio di avere una casa in cui restare a casa. E un altro dei temi che vorremmo affrontare invece oggi è quello dell'aborto. Cosa succede se una donna... In un momento di pandemia e di quarantena deve e vuole abortire. Cosa succede? Sì, sappiamo, quindi... no, che il sistema sanitario nazionale è in enorme difficoltà. Ci teniamo sempre a ricordare che queste responsabilità non hanno un cognome. Che questa difficoltà e la responsabilità di questa difficoltà hanno un cognome, che soprattutto nel centro della pandemia, la Lombardia, è piuttosto facile da identificare. Sappiamo che Regione Lombardia nel corso degli ultimi decenni ha sostanzialmente saccheggiato la sanità pubblica a favore di quella privata, che in questo momento è utile come un criceto nella ruota. E detto questo, e sempre salutoni a Formigoni ma anche a Fontana, e, però detto questo, certo la pandemia, ma poi come dire, le necessità di cura e di salute non si riducono a questo, no? E qui, da qui la domanda: cosa succede in tempo di coronavirus a chi ha sacrosanto diritto di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, anche perché sappiamo che per come è fatta la legge italiana non è che proprio i tempi sono i tempi sono già proibitivi, esatto, sono già proibitivi in condizioni normali, tra virgolette. Cosa accade ora è tutto da vedere. È tutto da vedere, ma noi, come Non Una Di Meno, partiamo sempre dal nostro piano che abbiamo costruito collettivamente, e abbiamo proprio dedicato un pezzo a questo tema che si chiama, giustamente, molto più di 194, perché è quello che vogliamo, molto più di 194. In Italia, su 94 ospedali con un reparto di ostetricia e ginecologia, solo 62 effettuano interruzioni volontarie di gravidanza, cioè solo il 65,5% del totale. L'obiezione di coscienza nel Servizio Sanitario Nazionale è illegittima perché lede il diritto all'autodeterminazione delle donne. Si è sentito, Marta? Abbastanza, abbastanza. Vuoi ridirlo? Perché per essere l'obiezione di coscienza nel Servizio Sanitario Nazionale è illegittima perché lede il diritto all'autodeterminazione delle donne. Aspetta che apro la finestra e facciamo un flash mob. Potremmo accontentarci di questo, ma siamo andate avanti. Per questo vogliamo pieno accesso a tutte le tecniche abortive, chirurgiche, farmacologiche per tutte le donne native e migranti che ne fanno richiesta. A partire dalla priorità dell'autodeterminazione delle donne, vogliamo promuovere la deospedalizzazione dell'aborto attraverso l'incremento della somministrazione delle pillole abortive. Devono essere modificati e armonizzati a livello nazionale i protocolli di somministrazione. Deve essere possibile accedere all'aborto farmacologico fino a 63 giorni, senza ospedalizzazione e attraverso una somministrazione che venga fatta anche dal personale ostetrico all'interno dei consultori. Rivendichiamo l'abolizione delle sanzioni amministrative per le donne che ricorrono ad aborto autoprocurato fuori dai termini di legge, perché costituiscono un deterrente al ricorso a cure mediche in caso di complicazioni, andando dunque a minare la salute e il benessere delle stesse. Il diritto all'autodeterminazione va garantito anche in caso di una scelta non riproduttiva e irreversibile, come ad esempio la chiusura delle tube o la vasectomia. Dici che siamo state chiare? Non so, si è capito? Si è capito? Ma in questo momento emergenziale nella pandemia di pandemia abbiamo delle compagne che hanno fatto un lavoro magnifico, sono delle compagne che fanno parte del percorso di Non Una di Meno, potete anche, magari le conoscete, fanno parte del gruppo Obiezione Respinta. Tanto amore. Le amiamo tantissimo, vi amiamo se ci state ascoltando. Sì, non so se avete notato che visto che nessuno ci manda la posta del cuore, la facciamo noi in diretta, mandiamo dei messaggi d'amore alle compagne di tutta la penisola. Assolutamente, che hanno aperto un canale Telegram che vi direi a questo punto giustamente di scaricare, sostenere, pubblicizzare, spammare quello che volete e amare, che si chiama SOS Aborto Covid-19. Facile. Sì. Facile, facile. E peraltro il canale che cosa fa sostanzialmente? Manda quotidianamente informazioni sulla situazione, come dire, della garanzia del diritto di interruzione di gravidanza, mettendo in condivisione tutte le segnalazioni che arrivano da tutta Italia. Quindi è un canale partecipato, potete, e come dire, la richiesta è come dire, di frequentarlo, ma anche di contribuire all'implementazione. Per farlo potete intanto seguire il progetto Obiezione Respinta sia sui social sia sul loro sito, che è obiezionerespinta.info, ma anche mandare a vostra volta segnalazioni a obiezione.respinta@canaglie.org per contribuire a far crescere questo strumento utilissimo per tutte. Obiezione Respinta ha anche un numero di telefono attivo H24 per tutti i casi di emergenza, per chiunque avesse bisogno di un supporto. Il numero è 0039 331 96 34889. Non so se Fede vuoi aggiungere qualcosa. Ma devo dire che le compagne hanno scritto un pezzettino di introduzione al canale che trovo riassuntivo e magnifico e vorrei leggervi, ma comunque ricordate. Con enfasi, mi raccomando. Esatto. In questi giorni in cui il sistema sanitario nazionale vive forti difficoltà, molte operazioni e prestazioni sanitarie vengono annullate o differite. Questa situazione ci ha portati a chiederci com'è abortire durante l'epidemia, che attualmente è una pandemia. L'aborto non è un'operazione che si può semplicemente posticipare, lo sappiamo bene, già di norma in Italia non è semplice interrompere una gravidanza per via dell'altissima diffusione dell'obiezione di coscienza, potremmo fare un coro su questo, e della difficoltà a reperire informazioni. In un momento di emergenza come questo, per chi vuole abortire è ancora più importante avere dei punti di riferimento a cui rivolgersi, informazioni chiare, precise per non tornare a casa senza sapere se, quando e dove si potrà abortire. Monitoriamo insieme lo stato dei servizi IVG in tutta Italia. Ecco. Perfette. Sono perfette. Aggiungo solo un pezzettino che oltre al servizio di supporto preziosissimo offerto dalle compagne di Obiezione Respinta, su Milano, grazie alla consultoria autogestita, abbiamo appunto questo servizio di mappatura quasi quotidiana, di aggiornamento quasi quotidiano sulla situazione milanese, una mappatura degli ospedali di Milano Interland in cui è possibile interrompere una gravidanza, e quindi se ne avete bisogno vi consigliamo di accedere a questa mappatura. Il sito è consultoriaautogestita.wordpress.com, anche questa piena di informazioni assolutamente utilissime. Bene. Molto bene. Molto bene. Allora, sai Fede che è già quasi un'ora che siamo in diretta? È incredibile. Oh, è pazzesco. Ed è bellissimo. Ed è bellissimo. Sarà bellissimo. Noi che siamo qua a ciacolare con vino e sigarettine. Sì, allora, mandiamo un pezzo. Assolutamente sì. Mandiamo un pezzo, poi torniamo in diretta e ci salutiamo, vi raccontiamo cosa succede da tra 3-4 minuti in avanti questa sera. E basta, dai, adesso vi metto sto pezzo, stiamo zitte, che forse è giunto anche il momento. Decirte adiós. Aunque me cueste estar a hostia con mi corazón. Hemos hecho lo que hemos podido. Prefiero estar sola a estar contigo. El mundo entero para mí, ahora sí que sí. El mundo entero para mí, ahora sí que sí. El mundo entero para mí, ahora sí que sí. El mundo entero para mí, ahora sí que sí. Siamo tornate per salutarvi. Siamo tornate per salutarvi. Allora, prima di salutarvi, adesso super al volo, scusami Fede, il bello della diretta, le sorprese in diretta, volevo mandare un contributo che ci è arrivato poco fa dalla quarantena, lo mando e poi vediamo se indovinate di chi è. Secondo me è facile. Scusa Fede, lo mando vai, vai. Al volo, pronti, partenza, via. Girare senza mascherina è da stronzi, perché è come un tipo che ti attacca l'HPV perché lui è troppo figo per mettersi il condom e poi a lui il papilloma non dà sintomi, quindi cazzo gliene, però lo attacca a tutte le tipe che lo attaccano ad altri e alla fine a Milano il 90% più delle persone sessualmente attive ce l'ha. Poi vabbè, nessuno manda le mascherine, quindi è ovvio che nessuno metta l'obbligo. Però insomma, mettete le mascherine, Cristo! Eccoci. Mettete ste mascherine, Cristo. Ora, noi sappiamo bene che le mascherine, a differenza dei condom, vi vediamo, sono introvabili e che è bene che le poche che ci siano le usino. Gli operatori della sanità, dopodiché più mascherine per tutto e soprattutto più condom per tutto. Bene, scusate. Assolutamente, poi un giorno faremo una puntata sulle scuse che usano i maschi per non mettere il preservativo. Oh, dai, bellissimo. Dai, che sono bellissime! Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Va bene, dopo questo ultimo delirio è ufficialmente giunto il momento di salutarvi. Ora, cosa succede? Oggi va così, abbiamo fatto questa oretta e poco più di diretta, adesso facciamo partire una meravigliosa playlist che ci ha regalato le DJ. La playlist in verità non è un'esclusiva, perché a noi l'esclusiva ci fa cagare, ma è una playlist che le DJ ha regalato ieri a Radio Z AM, che ha fatto una puntata su sessismo e quarantena, e siccome ci amiamo moltissimo e siamo sorelle di dominio e di vita e di strada e di politica, condividiamo tutto il condivisibile e anzi ne approfittiamo per invitarvi ad ascoltare, quando non ascoltate noi, Radio ZAM. Il dominio è molto simile al nostro ed è appunto adesso, sì, scusatemi, mi sono persa, abbiamo un dominio.org 2.8000/radiozam.org, quindi ascoltate le compagne e i compagni di ZAM. E mi sono persa, cosa stavo dicendo? La playlist, giusto? La playlist di le DJ, che comunque anche a lei mandiamo tantissimissimi cuori. Esatto, le DJ, amore del nostro cor, del nostro corazon, speriamo che continui a suggerirci musica per ballare. Quindi ora, dicevo, playlist per circa un'oretta e a seguire vi mandiamo per, come ripassone, per chi non l'avesse ancora ascoltate, per tutte quelle persone che invece le hanno ascoltate, le hanno amate e le vogliono risentire, le lezioni di fuori classe. Perché, non una di meno, tra i progetti che sta portando avanti in questa quarantena, ha questo progetto, come dire, di sovversione delle lezioni e delle materie scolastiche. Sappiamo che uno dei temi caldi di questi giorni sono appunto le lezioni online, per le scuole che sono chiuse, per i ragazzi e le ragazze, gli studenti e le studentesse che devono studiare da casa, e quindi abbiamo pensato che quale occasione più ghiotta di questa per provare a fare quello che continuiamo a ripeterci, no? Per partire dalle scuole, sovvertire sì. la conoscenza in tutte le materie canoniche della scuola, la storia, la geografia, il diritto, l'antropologia. E quindi tutti i giorni a mezzogiorno andiamo in diretta, ogni giorno con un tema diverso, sui nostri canali social trovate anche tutta la programmazione. E quindi ora vi mandiamo, subito dopo, insomma tra un'oretta più o meno, io credo, ma ci saranno un'oretta di musica e poi un'oretta di fuori classe, vi riproponiamo le prime due lezioni, la prima sulla storia del femminismo, curata dalla nostra amata Carlotta, e invece la seconda sul tema antropologico che ha fatto Elena. E niente, vi salutiamo con amore, speriamo di tornare in diretta presto, magari non domani, però sicuramente venerdì. Seguite i nostri canali per sapere quando, dove, come, perché. Fede? Tanto li abbiamo detti, sono tantissimi, cercate ovunque, non una di meno Milano, e ci trovate. E ci trovate. E mandateci la posta del cuore, noi la vogliamo. Sì, per favore, Seguite il nostro canale Telegram e mandateci tutte le vostre informazioni e tutto l'amore. Va bene. Ci risentiamo presto. Baci.

promise is a promise. I can trust him completely cause he keep his word. Help me achieve things that every time I need him, when he sacrificed, he always put me first. And let me tell you exactly what I want. I know you heard it all a million times before. Strong enough that he ain't causing me pain. This one is gonna be if I ever fall in love again. When I fall, when in, I love, fall in love, it will be forever. Cause I'll never ever fall in love again. Fall in love again. When I fall in love, there will be no other. Only me and you, me and you, in this whole wide world. Man, I really care for the way certain why I'm a flux. The way that why I go on just to get reversed. The attitude, disrespect, the game's on the string. Got a good woman like me, never wanted to know love again. This love has been the pain, I'm at the end of my tether. So if I fall in love again, it's gotta be forever. I know you heard it all a million times before. I ain't the first to show us how gonna be men and more. Ay, ay, ay, ay, ay. calling, speak the slang now, boy say what? Go on, girl say what? What? London calling, speak the slang now, boy say what? Go on, girl say what? What? Slam, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, shotgun, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, too late, you down, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Wish I could just go back to the Dairy Queen, yeah. They said they'd take me back. One trip, we can make a mistake, pressure. One trip, we can make a mistake, One trip, we can make a mistake, pressure, pressure, pressure. My girl was fighting for being pregnant. I don't know where her fucking head went. She's seeking me on to give a fuck about life. When he'd rather take her in the back, race or style. In the stack, she be like she's 60. Like how we treat her old. You said you had your day, and now that truth's been told, you ain't used and abused, been no more confused. Fired for being pregnant, which I think could be next. We all disposable heroes, and these killers come correct. There's a 2 week left, and you can't pay your rent. Your paycheck says 150, my daycare 160. One trip, we can make a mistake, pressure. One trip, we can make a mistake, hell. One trip, we can make a mistake, pressure, pressure, pressure. My girl was fighting for being pregnant. I don't know where her fucking head went. She thinking me only give a fuck about life. When he'd rather take her in the back, race or styling. In the stack, she be like she's 60. Like how we treat her old. You said you had your day, and Watch out, you could be next. We all disposable heroes and these killers come correct. There's a 2 week left and you can't pay your rent. Your paycheck says 150, my dick here 160. Pressure in this cooker like your pieces of rice. Struggling for this life like we all are. To different degrees, you got me begging on my knees. I'm begging boss man, please. I'm begging for the obvious. Get off top of us, no hierarchy. Hold me down, you say we box the scene. And there's no more sound. Hitting can save me now, like she ever could. She's feeling her position, man, she's feeling her role. This role we've seen before, and I think we can have a classless society, horizontally. Dismantle the power stack, distribute our wealth back. So get up, it's a stick up, stick up. They got us begging on our knees, we're begging boss man, please. I'm begging for the obvious, get off top of us. No hierarchy, hold us down. You box the scene and there's no more sound. Hillary can save us now. And it's one trip, we can make a mistake. Pressure, one trip, we can make a mistake. Hail, one trip, we can make a mistake. Pressure, pressure, pressure. And it's drowning dog trauma connection. Sing! that Eldorado when my mama do the mambo. I so aficionado while I'm banging on my bongo. Little one is a covida reina of the jungle. Mira mi tranquila vida riding down the Congo. Got that Eldorado when my mama do the mambo. I so aficionado while I'm banging on my bongo. Freedom, my people, from here to Montego. Dale morena like this Puerto Rico. We go and we make it rain like El Nino. Got that sofrito, that primo, that negro. None of these hitters is fucking with me though. We so cool, we ride off in El Camino. We gon' be seen, yo, no need no Nat Geo. Got so much juice, they just call me Dumbico. I'm into the beat of the drum all day. One with the sun, let it lead my way. Gli anni, ho voglia di ballare, ho voglia di ballare. non mi ami.

Eccoci, torno mezzo minuto in diretta perché ovviamente è la prima e quindi qualche problema bisognava che ci fosse. C'è un piccolissimo problema con gli audio delle lezioni di fuori classe, quindi ho paura che questa sera non le potremo sentire, ma le sentiremo presto, ve lo prometto. Quindi ora io stacco. E vi auguro una buona serata, ci risentiamo tra qualche giorno, speriamo venerdì, e basta, è stato bello, ci siamo divertite. E faccio un'ultima doverosa annotazione: la bellissima playlist che ci ha regalato le DJ è partita, come si suol dire, a cazzo di cane, in un ordine del tutto variabile. Ma domani al più tardi, quando carichiamo l'audio della puntata sul nostro blog, che vi ricordo essere nonunamilanoblog.wordpress.com forse, e ve la rimettiamo in ordine, cioè quantomeno nella descrizione, così la potete sentire così come è stata pensata, che è sicuramente meglio di come è andata. Basta, vi bacio, buona serata.